Italia pronta ai rimpatri. E vola il prezzo del petrolio anche in borsa. La rivoluzione libica chiede il conto. Preoccupate Unione Europea e Stati Uniti. Un raptus alla sparatoria all'aeroporto di Malpensa. Ancora fermi i voli. Montezemolo dice no, non guiderà il comitato per Roma Olimpica. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Prima della lunga pagina dedicata alla Libia, torniamo a Malpensa. Voli ancora bloccati nello scalo milanese dopo la sparatoria di questa mattina, ma qualche particolare ora si va chiarendo. Anna Rita D'Ambrosio. Sì, non c'era innanzitutto nessun intento terroristico nel gesto compiuto dal tunisino 42enne rimasto ferito da un poliziotto, come raccontava l'aeroporto di Malpensa, dopo che aveva sfondato una porta con un SUV rivelatosi poi rubato. L'uomo stava accompagnando la moglie italiana all'aeroporto e sembra che il raptus lo abbia colto proprio a causa di un violento litigio avuto con la donna legato a questa partenza. Il tutto è accaduto poco dopo le 11 e adesso arrivano anche le parole dei primi testimoni, delle hostess che si trovavano nei pressi della porta 14 sfondata. Abbiamo sentito un botto fortissimo, raccontano, e dopo poco altri due colpi, probabilmente di pistola. Abbiamo assistito a un fuggi-fuggi generale e ci siamo poi barricate in ufficio. Quando l'uomo è uscito dalla vettura impugnando un coltello, ha cercato infatti di aggredire un poliziotto ed un collega che era con lui, ha sparato ferendolo ad un piede. La situazione dei voli, dicevi. Allora, i voli in arrivo al Terminal 1, che è quello dei voli internazionali, il più grande, sono tutti regolari. Al Terminal 2, che è quello invece dal quale partono i voli low cost, molti della EasyJet, sono regolari sia gli arrivi che le partenze. Nel Terminal 1 sono bloccati i voli, dicevamo, in partenza, ma quelli in arrivo sono regolari. È chiuso lo svincolo stradale che porta all'area e in aeroporto si può accedere solo nella zona arrivi. All'interno del Terminal 1, per motivi di sicurezza, sono ancora chiusi anche ascensori, scale e scale mobili. Tra pochissimo è prevista anche una conferenza stampa della polizia, la Polaria, i poliziotti in servizio in aeroporto, e della SEA che gestisce gli scali milanesi. Dunque forniremo ulteriori dettagli più tardi. E grazie ad Anna Rita D'Ambrosio. Ora, come promesso, l'ampia pagina dedicata questa mattina alla situazione in Libia. Regna ormai il caos, di Gheddafi non si hanno più notizie certe. Saluto qui accanto a me anche Gigi Donelli. Sì, buongiorno Anno. E Cristina Carpinelli. Buongiorno. Cominciamo, Cristina, dalla situazione in questi minuti. Sì, allora io partirei con i rumori che abbiamo raccolto dalle piazze. Ecco, questi che vi stiamo facendo sentire sono i suoni della protesta e sono suoni impressionanti. Si sentono degli spari, insomma è di fatto uno dei giorni più lunghi, quello in cui la polizia e l'esercito hanno mollato il proprio ruolo e le città libiche sono in mano al caos, ai miliziani, ai mercenari nigeriani, tunisini, algerini che stanno sparando sulla folla. Sono rimasti loro gli ultimi a difendere il Rais. Li chiamano i mastini della guerra e si può immaginare il perché di questo soprannome. Sembra, circola questa notizia, ma è da verificare, che questi cecchini siano pagati in base ai manifestanti che uccidono. Quindi storie terribili. Per ora i morti sono 291 in 7 giorni, 60 ieri a Bengasi, 61 oggi a Tripoli, ma il bilancio ufficioso dice che i morti sarebbero molti di più. A peggiorare la situazione il discorso del figlio di Gheddafi, che ieri ha promesso riforme ma ha minacciato: fermatevi o sarà guerra civile. Da allora nella capitale si sentono spari e urla. In fiamme oggi il Palazzo del Popolo, uno dei principali edifici governativi. Di notte poi era stata diffusa la notizia che Gheddafi fosse già in fuga verso il Venezuela. La notizia era stata data da Al Jazeera, che poi proprio poco fa ha smentito dicendo che il Rais sarebbe ancora a Tripoli. Intanto sul fronte europeo sono pronti i piani di evacuazione nel caso si rendessero necessari, ma non è stato dato ancora il via per far uscire tutti gli europei presenti in Libia. Questo vale anche per i nostri italiani, infatti la stessa cosa l'ha affermata il sottosegretario agli esteri Stefania Craxi rilasciando delle dichiarazioni ai giornalisti. Per ora è tutto, ovviamente le notizie continueremo a darvele nel corso dei prossimi giornali radio e naturalmente appena ci saranno aggiornamenti. Grazie Cristina Carpinelli. Parlavi tu di Europa, da Bruxelles ha parlato questa mattina anche il ministro degli esteri italiano Franco Frattini, ha sottolineato la necessità che l'Europa non interferisca nei processi di transizione in atto nei paesi del Nord Africa. Va avviato invece, ha detto Frattini, un processo di riconciliazione, ma sentiamolo. Io credo che il processo di riconciliazione nazionale debba partire in modo pacifico arrivando poi a una costituzione libica, questo sarebbe un obiettivo fondamentale. Sono ancora più preoccupato per il fatto che si stanno affermando ipotesi come quelle di Emirati Islamici nell'est della Libia. Comprendete bene che a poche decine di chilometri dall'Europa questo costituirebbe un fattore di grande pericolosità. Ecco, Gigi Donnelly, una situazione che fino a poche ore fa tutto sommato sembrava in qualche modo governabile, poi è precipitata, e peraltro del regime di Gheddafi ieri a parlare è stato un volto almeno per noi di secondo piano. Ma perché precipitata adesso? Perché tutto questo? Evidentemente, come accade in queste vicende, lo scopriamo quando gli eventi poi trasformano la realtà. Insomma, nessuno può avere la percezione se non evidentemente chi vive quotidianamente la realtà libica del livello di frustrazione e di complessità in cui un paese versa. Quindi le rivoluzioni in fondo esplodono per questo. Ecco, che cosa sta accadendo? Il fatto che abbia scelto Saif al-Islam, perché appunto di Gheddafi di figli ne ha molti, ne ha alcuni che sono, come dire, clamorosamente impresentabili. Forse ricordate Hannibal, un uomo che minacciò, che disse: se avessi una bomba atomica farei sparire la Svizzera. Questo dopo aver picchiato due camerieri in un albergo appunto in Svizzera, e reagì in questo modo alla pretesa della polizia svizzera che lui rendesse conto della vicenda. Forse in Italia ricordiamo anche un altro figlio, che è Al-Saadi, famoso dalle nostre parti per la sua passione per il calcio. Infatti nei suoi dati biografici, tra le varie cose, c'è anche una partita col Perugia, una con l'Udinese, eccetera. Bene, Saif è sicuramente una parte più presentabile, l'architetto è un ragazzo che innanzitutto ha un curriculum di studio che l'ha portato, come spesso accade in queste dinastie, in questa di fatto nobiltà araba, l'ha portato a Vienna, l'ha portato a Londra. Ecco, a quanto pare però, nonostante tutto questo, il suo percorso e anche il suo intervento televisivo si è risolto in un ricatto di fondo. Insomma, avete l'opzione o di affogare nel sangue oppure di calmarvi tutti quanti. Insomma, a quanto pare i meccanismi non funzionano in queste logiche. Ci sono molti spunti proprio nelle ultime ore. Uno di questi, che forse vale la pena di registrare, che è stato rilanciato poco fa dall'agenzia, che nelle strade ci sarebbero anche delle figure davvero centrali nella storia di quel paese. Leggo infatti che l'anziano figlio dell'eroe della resistenza, Omar el-Mukhtar, quindi lo sceicco Mohammed Omar el-Mukhtar, nonostante i suoi 82 anni, sarebbe nelle strade a manifestare contro il regime. El-Mukhtar è l'eroe stesso della resistenza libica, è l'uomo che ha sfidato gli italiani e da cui è stato impiccato. Insomma, se fosse vero, vuol dire che il regime è arrivato a un punto di reazione da generare appunto la discesa in strada di anziani signori con una grandissima posizione all'interno del suo paese. Storia alle spalle. Per dare un po' anche il clima di quello che tu raccontavi, di quello che sta succedendo, Laura Bettini ha sentito un attivista libico di un'associazione non governativa che ha sede in Svizzera, Hamed El Ghajir. Sentiamo cosa ci ha raccontato. See, the situation in the main square of the city is sembra okay. Che la situazione nelle principali piazze di Tripoli sia tranquilla. Ci sono però problemi vicino a Bedlassisia, dove si trova il quartiere generale di Gheddafi. Ed anche nel distretto di Al-Aqwa. Un tempo c'erano baracche, ora sono case popolari sulla strada per l'aeroporto. Qui ci sono scontri, o meglio, non scontri, ma sono all'opera quelli dei due battaglioni speciali di Gheddafi che stanno attaccando e sparando sulla gente. Il battaglione a Bedlassasia è il battaglione della Guardia Repubblicana, mentre nella zona dell'aeroporto c'è il battaglione comandato dal figlio di Gheddafi, Khamis, è lo stesso che è entrato in azione la scorsa settimana. Si è detto che Gheddafi sia fuggito. Sono pettegolezzi che sono girati, ma nessuno ha una prova, sono senza fondamento. Lei rappresenta un'associazione umanitaria in Svizzera. Che cosa si può fare, cos'è necessario fare per la popolazione libica ora? Gli ospedali sono stracolmi, ci sono moltissimi feriti e c'è necessità di tutto. Noi temiamo che quei due battaglioni di cui dicevamo possano compiere gli stessi orrori o peggio ancora dei battaglioni che hanno agito a Bengasi nel fine settimana. Bisogna che l'Europa metta pressione. I governi europei pensano all'incolumità dei loro cittadini, ma dovrebbero anche fare molta pressione su ciò che resta del regime. Non penso che Gheddafi abbia poi così tanto il controllo sul paese. In alcune parti ancora sì, ma a Tripoli, ovest di Tripoli, ma anche a sud, nelle aree sud della città, no, non l'ha più. A est forse a Sirte, la città di Gheddafi, ma di questa zona non abbiamo notizie. Quello che ci aspettiamo dall'Unione Europea è una dichiarazione ferma, perché la stabilità libica non è solo un problema di legami economici, ma anche di sicurezza dei confini. Al regime dovrebbe dire che devono lasciare e avviare la transizione. Queste le richieste, sentivamo peraltro, che arrivano all'Unione Europea dalla Libia. Sentivamo prima anche Frattini, che chiede tutto sommato all'Unione Europea di non intervenire. Eppure le pressioni in queste ore sono molte, perché anche il presidente Obama sta valutando il da farsi. La Libia, peraltro, di legami con l'Italia ne ha molti. Gigi, se ci sono margini per la diplomazia in queste ore? Ma sicuramente ci sono sempre. È chiaro, quello che sta emergendo è la posizione particolare dell'Italia, ma voglio dire, di fronte agli occhi di tutti non è nascosta, è storica. Abbiamo chiaramente un legame che è quello coloniale, ma poi non è finito nulla. Negli anni 50, con l'affermazione, diciamo, della politica di Mattei e quindi l'ENI, la Libia è diventato progressivamente quel gigante petrolifero che è oggi, che ha coinvolto gli interessi della Russia e così via. Insomma, oggi l'Italia ha una posizione di privilegio che naturalmente la mette in una situazione di interessi diversi da quelli che sono da altri paesi. L'integrità territoriale, di cui si parla in queste ore, quasi che sia diventato appunto un tema centrale, in realtà non è in discussione, ma è in qualche modo un eco di quanto sta accadendo altrove. Basta guardare appena sotto la Libia, in Sudan, un paese enorme e pieno di petrolio, si sta dividendo in due parti. Bene, in questo caso l'Europa non si è schierata contro in favore dell'integrità territoriale. Perché? Perché gli interessi sono diversi, quindi non è il caso, come dire, di farsi turbare da quelle che sono le legittime interessi delle cancellerie, che questa volta vede l'Italia con una posizione molto particolare. Non dimentichiamolo, l'ultima volta, 2008, trattato di Bengasi, l'Italia firma anche l'articolo 4 in cui si impegna a non ingerire negli affari interni e a tutelare gli interessi di Tripoli. E quindi l'interesse c'è. Dicevamo interessi economici, sono molti, ne parliamo tra poco, ma Cristina Carpinelli, ci sono degli aggiornamenti? Sì, aggiornamenti a conferma anche di quanto stava dicendo Gigi, che arrivano da Bruxelles, dal Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea. Si sta negoziando proprio in queste ore un testo condiviso sulla Libia. Pare che l'Italia, riferiscono fonti della Farnesina, stia insistendo molto, appunto come diceva Gigi, perché nella bozza ci sia un riferimento alla necessità che questa integrità territoriale della Libia sia mantenuta e difesa. La posizione dell'Italia è praticamente sola e più articolata, sottolineano queste fonti, rispetto alla linea molto dura invece che è stata espressa da Gran Bretagna e Germania. Sul fronte degli interessi economici c'è da aggiungere, Eni e Impregilo questa mattina in una nota hanno entrambi rassicurato: secondo le due aziende al momento il lavoro in Libia procede nella normalità, così almeno sostengono Eni ed Impregilo. Ma dicevamo, molti gli interessi economici, allora sentiamo anche su questo fronte questa mattina si sta muovendo e molto. Deborah Rusciani. Sì, le aziende avranno anche rassicurato, ma diciamo che il mercato al momento prende le distanze da queste rassicurazioni. I due titoli citati, Anna, sono i peggiori in assoluto Piazza Affari. Impregilo perde il 5,36%, Eni meno 4,68%. Impregilo in Libia ha commesse per 260 milioni di euro, mentre Eni in Libia è il primo operatore internazionale nell'estrazione di petrolio e gas. Ma ad affondare oggi in relazione alla crisi libica sono anche altre aziende. In primo luogo Unicredit perde il 3,23%, lo ricordiamo, nell'azionariato della banca sono presenti i libici con una quota del 7%, e peraltro l'ingresso dei libici nel capitale di Piazza Cordusio portò, come ricorderete, alle drammatiche dimissioni di Alessandro Profumo. Ansaldo meno 3,24%, ha contratti in Libia per sistemi ferroviari del valore di 750 milioni di euro e arretra appunto adesso in borsa del 3,24%. Perde oltre un punto Finmeccanica, che con il colonnello ha firmato contratti per 1 miliardo di euro. Questa è la situazione. Questi cali così marcati portano Piazza Affari a perdere oltre il 2%, mentre le altre piazze europee non perdono neanche mezzo punto percentuale. Ovviamente non possiamo non monitorare il prezzo del petrolio. Ricordiamo che la Libia è il quarto produttore di greggio del continente africano ed è un importante membro del cartello OPEC, i principali paesi produttori. Il greggio si muove a rialzo sia a New York a $93 a barile, ma soprattutto a Londra si è arrampicato fino a $105, e per ora è tutto. Grazie Deborah Rosciani. Sì, Gigi Donelli. Battuta. Ricordiamo sempre che questi numeri interessanti che sentiamo di Eni Petrolio, bene, la Libia è cresciuta attraverso una monarchia e si è sviluppata attraverso il regime del colonnello. Insomma, certi affari si sviluppano anche attraverso le rivoluzioni. Grazie anche a Cristina Carpinelli. Buona giornata. E naturalmente da aggiungere che continuano intanto anche gli avvistamenti di barconi carichi di immigrati al largo di Lampedusa. Questa mattina è stata individuata una barca con a bordo una decina di clandestini maghrebini che procede a remi. All'alba erano sbarcati altri 130 immigrati. Le 13:20, le notizie di oggi di GR24, Tripoli in fiamme, Gheddafi in fuga, in Libia in rivolta, decine le vittime, preoccupate Unione Europea e Stati Uniti, vola il prezzo del petrolio. Un raptus, la sparatoria all'aeroporto di Malpensa, ancora fermi i voli al Terminal 1. Sarà Pescante il presidente del comitato per Roma Olimpica dopo il rifiuto di Montezemolo. E per la politica italiana, il PD dice no al ritorno dell'immunità parlamentare, oggi la decisione dei legali del Premier per la strategia difensiva. Riprendiamo proprio da qui con la politica italiana e con una settimana che si apre ancora all'insegna della discussione sulla giustizia. Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, al centro della settimana politica il tema della giustizia, mentre dobbiamo dire che si rafforza la maggioranza alla Camera. Il Premier Silvio Berlusconi ha intenzione di affrontare il tema delle intercettazioni, nuove norme per le quali chi passa le conversazioni telefoniche alla stampa andrà in galera per molti anni. Per il Presidente del Consiglio la giustizia è sempre più un contropotere politico e per questo la maggioranza avrebbe intenzione di mettere mano anche al ripristino dell'immunità parlamentare, tema che ha già il no del Partito Democratico. Contrario, dice il capogruppo Dario Franceschini alla Camera, senza nessuna ambiguità. Si sgombrano così le voci che avrebbe dato il suo assenso il Partito Democratico. E Berlusconi pensa che anche bisogna riformare la Consulta per abrogare le leggi con una maggioranza qualificata dei 2/3. Nella maggioranza invece arriva Luca Barbareschi, che lascia definitivamente Future Libertà alla Camera dopo le voci della scorsa settimana. L'ex attore dice di essere stato deluso dal presidente della Camera Gianfranco Fini, mentre Carmelo Briguglio di Future Libertà attacca: in Parlamento vengono praticati per lo shopping di deputati e senatori gli stessi metodi usati per le di Arcore. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie. 10 anni fa, la sera del 21 febbraio del 2001, si consumava a Novi Ligure un delitto che è rimasto impresso nella storia del paese. Erika De Nardo, allora 16enne, ricorderete, massacrò, aiutata dall'allora fidanzato, la madre e il fratellino. Oggi l'ex fidanzato di lei ha scontato la sua pena ed è libero. Erika potrebbe uscire a fine anno. In carcere ha lavorato, ha studiato, si è laureata. Chi l'ha seguita in questi anni dice che è cambiata. Il percorso di rieducazione, insomma, sembra essere stato positivo. Valeria De Rosa ha intervistato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. Bisogna sempre distinguere ciò che accade negli istituti penali per minori da quello che accade negli istituti penali per adulti. Si tratta di due mondi penitenziari non contigui, molto diversi. Nel sistema minorile non c'è mai stato un sovraffollamento, diciamo, di quelli che rendono utopica la speranza di rieducazione. E la loro detenzione è iniziata lì, è iniziata appunto negli istituti penali per minori, dove c'è un'attenzione sociale, un'attenzione umana diversa da quello che invece noi riscontriamo fra gli adulti. Comunque anche casi come questi ci insegna che comunque non va mai riposta nel cassetto la speranza rieducativa nei confronti di nessuno, e che se lo Stato si impegna, uno Stato civile, di diritto, democratico, riesce ad essere più forte della volontà criminale dei singoli. In questa vicenda un ruolo particolare, anche se molto defilato, lo ha sempre svolto anche il padre di questa ragazza. Il ruolo del padre è un ruolo coraggioso, ovviamente, dopo un fatto di quel tipo, è un ruolo assolutamente coraggioso, sicuramente ha costruito un ponte. Se non ci fosse stato quel ponte, non sapremmo sicuramente che destino avrebbe avuto questa storia e quei due ragazzi, in particolare Erika, perché diciamo il padre ha avuto un coraggio non comune a mantenere aperto il filo del dialogo. Amanda Knox, il contestato film è dedicato ad un altro delitto che ha fatto molto discutere, quello di Meredith a Perugia, andrà intanto in onda stasera alle 21 su Lifetime. All'ultimo è stato però deciso di tagliare la brutale scena dell'omicidio, quella contestata. A Roma puntano sulle immagini girate da due telecamere di sorveglianza le indagini per dare un nome e un volto ai due responsabili dello stupro denunciato venerdì notte da una studentessa spagnola. Andrea Viale ha sentito intanto Adriano Angelini, presidente dell'associazione Tridente, centro storico di commercianti e residenti. Tutti i giorni abbiamo, non so, la rottura di un finestrino, di una macchina, queste cose che sono banali, però non pensavamo mai, insomma, un venerdì intorno a 2:00 a Piazza di Spagna, uno stupro di una giovane donna, non ci siamo mai aspettati, insomma. Secondo voi cosa si può fare per evitare che episodi come questi si ripetano? Abbiamo chiesto un incontro al prefetto, di cui chiederemo soprattutto un aumento dell'illuminazione nelle zone scoperte, perché quella è una zona di San Sebastianello che è accanto Piazza di Spagna, chi non lo sapesse, dunque rimane buia. Chiediamo anche l'aumento di queste famose telecamere e poi il problema è che un miglior raccordo con le forze dell'ordine. Non è che non c'è un notevole spiegamento di forze, solo che per noi sono mal assortite, nel senso che delle ore vediamo molta polizia, finanza, e delle ore, specialmente la notte, siamo in balia di gente strana, insomma, di balordi, ma come sono in tutte le parti del mondo, non è che solo Roma purtroppo ce l'ha. Questa poi è una zona, diciamo, che non c'è molto mobile da noi nel Tridente, nel senso che dalle 11 a mezzanotte c'è pochissima gente in giro. Sarà Mario Pescante, vicepresidente del CIO, il presidente del comitato promotore delle Olimpiadi di Roma 2020. La notizia è arrivata un istante fa dopo il rifiuto di Montezemolo. È restato sempre allo sport, restando alla Roma, manca solo l'ufficialità ormai, ma dovrebbe essere Vincenzo Montella, il nuovo allenatore dei giallorossi. Questa mattina c'è già stato un incontro tra il tecnico e i dirigenti. E ora la musica con un grande della musica classica. Il tenore Placido Domingo festeggia i 50 anni di carriera. Un traguardo straordinario per un cantante che ufficialmente compie 70 anni. Nelle vetrine tutto un fiorire di album celebrativi, di CD e DVD curati dalle sue case discografiche come la EMI. Giorgio Gualerzi, maestro di voci liriche, non si sottrae da un confronto importante. Non c'è dubbio che su un piano assoluto l'importanza di Domingo supera quella di Pavarotti, questo è poco ma sicuro. Pavarotti, dotato di una voce bellissima, tecnicamente a posto, cosa che non si poteva dire di Domingo, però riscattata sul piano di Domingo dalla professionalità, dalla capacità, dalla conoscenza della musica, e questo è un dato importantissimo, questo che sto per dire, dalla capacità di Domingo di mettersi sempre in discussione, cioè affrontando anche avanti negli anni, nel prosieguo degli anni, il repertorio contemporaneo. C'è un personaggio a lui più congeniale? Ma lui, credo che a una domanda del genere direbbe che certamente Otello rientra tra i personaggi di Domingo. Abbiamo raggiunto negli Stati Uniti il grande soprano Renata Scotto. Un ricordo speciale è la Francesca da Rimini e la Manon Lescaut, perché tutte e due erano per me due opere importantissime. Avere un partner che ogni parola, ogni espressione, non siamo noi Renata e Placido, ma siamo i due caratteri, e questo sono stati i momenti più emozionanti. Giovanni Bracco, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed è tutto, gli aggiornamenti di GR24 come sempre alle 14, da Filippo Reggi in regia e da Anna Migliorati, ancora una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.